Avveniamo invece al piano industriale. Voi avete appunto confermato 2 miliardi di dividendi, sopra 2 miliardi nel periodo 2011-2015, dicevo, e anche 37 miliardi di nuovi crediti all'economia. Allora qui il tema va all'appello, diciamo così, al grido di dolore, se vogliamo chiamarlo in questo modo, di Emma Marcegaglia di domenica, che ha detto: attenzione, insomma, gli industriali sono stati lasciati soli. Prima domanda, secondo lei si riferiva anche alle banche oltre che alla politica? No, assolutamente no. Io credo che il rapporto fra banche e imprese nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, sia stato vissuto da entrambe come un rapporto intanto tra imprese, perché le banche non sono altro che imprese che fanno un lavoro diverso dalle altre imprese. È stato vissuto in maniera serena, corretta, abbiamo risolto una serie di elementi problematici, abbiamo tavoli importanti sulla produttività e su altri temi insieme a Confindustria, abbiamo imparato a conoscerci meglio e a capire con grande chiarezza che le regole che riguardano il funzionamento delle banche non sono altro che le regole che determinano i rapporti fra le banche, fra le imprese bancarie e le altre imprese, e quindi che ci vuole un'attenzione comune. Quindi sicuramente non credo che l'appello della Presidente Marcegaglia fosse rivolto nei confronti delle banche, credo che sia un periodo questo in cui le imprese italiane hanno avuto le banche al loro fianco, non solo per tutte le operazioni di sospensione dei mutui e poi le altre operazioni successive alla scadenza della sospensione, ma proprio perché si è instaurato un dialogo franco, chiaro e trasparente fra imprese bancarie e altre imprese del paese.